cui ha lavorato per diversi anni, ci ha voluto un po', l'ho fatto, come dire, stagionare come il formaggio nel corso del tempo, quindi... Ottimo. È bello avere una cantante che non conoscevamo, perché la Simona Pinelli, che è qui con noi in qualità stavolta di assessora alla cultura del Comune di Casalecchio, oggi non canterai. Oggi non canto per vari incatti, e soprattutto perché siamo una folla di una squadra di calcetto con la riserva stasera, quindi potremmo fare un torneino di calcetto. Diventava difficoltoso perché siamo ingombranti, mm-hmm. Però tornerai sì, naturalmente sì, con un paio di proposte tipo attorno a Natale potrei tornare a Natale però non farmi cantare le canzoni di Natale, non c'è dubbio, perché in realtà faccio un appello ai colleghi di Radio Città Fujiko: per favore non mettete le canzoni di Natale, ecco, a Natale, cioè voglio dire, basta girare la manopola della radio e tutte le radio mettono ste cazzo di canzoni di Natale, almeno allora, Radio Città Fujiko, se vengo sotto evitatone. Natale ti faccio proprio Sweet Dreams di Marilyn Manson, esattamente. Andiamo sull'opposto, sì, stasera più come assessore, diciamo. Ok. Chiamare assessore o assessora? Allora, è una domanda che ultimamente mi fanno molto spesso. Ok. Perché per me, per essere veramente la parità di genere, ognuno mi chiama come vuole. Ah, vedi, fantastico. Cioè, proprio bipartisan. Mi vuoi chiamare assessore? Va bene. Anche perché, a mio avviso, essendo assessoris della terza, tipo consulis, mm-hmm. secondo me dovrebbe rimanere assessore. Ah, vedi. Come il cantante, non dici la cantanta. È vero. O l'autisto. Ok. La cantante. L'autista. Capisco. Cioè, ci sono dei nomi che possono anche rimanere così. Detto ciò, va benissimo anche essere chiamata assessora. Ok. E assessore, come uno gli viene, quindi... Mm. Proprio che è la parità di genere. Ti viene assessore? Mi piace. Ti viene assessora? Mi piace lo stesso. Ti piace lo stesso, molto bene. Mi vuoi chiamare Simona? Ancora meglio. Perché ok, ti possiamo chiamare Simona Pinelli con nome e cognome. Nome e cognome. E non ci si sbaglia. Come i compagni delle medie, sì. Dopodiché abbiamo Giorgia Tronconi da Diacenze. Ciao, ciao. Ciao, buona serata. Che ormai è una di noi, è di casa. Che ci hai portato invece una straniera, una calciatrice straniera. Esatto, Sara. Sara Larsen Stiansen. Ok. Welcome, Sara. Welcome. Thank you. Hi. Noi ti traduciamo stasera, siamo in tantissimi che parlano inglese. We can translate you tonight. Ok. And we have our friends from Virginia listening to us, right? Yes, we do. Exactly. So they can translate in their head. Half and half. Okay. We can do half in English, half in Italian. I keep getting messages from Corina from Athens that says she's laughing, but she doesn't understand anything of what we're saying. Okay, okay. But now she does, because we're speaking English. Comunque ti salutiamo. Now it's Sara moment. Sara, exactly. Where are you from? I'm from Norway. Norway. Mm-hmm. Tell us something about your stay here. I'm here on an artist residency at Adiacenza. I arrived 1.5 weeks ago, and I just told you earlier it feels like a life in a life. It's been 1.5 weeks, but it's been full of impressions and activities. Well, first time here. Wow. First time in Italy. No, but in Bologna. Giorgia, raccontaci tu in italiano quello che qualche esperienza che di questa settimana. Ma allora, guarda, Sara è arrivata appunto la settimana scorsa. In realtà, appunto, lei l'abbiamo conosciuta diversi mesi fa, perché questo è il ritorno di uno scambio che abbiamo impostato l'anno scorso con la città di Bergen in Norvegia, da cui proviene Sara. Ci ricordiamo, eravate venuti a raccontarlo in Coxo Spaziale. Esatto, in qualche... l'anno scorso eravamo stati con Paolo e Nadia degli Antonello Ghezzi. Quest'anno siamo tornati con il duo Orecchie d'Asino, e quando siamo stati lì abbiamo conosciuto Sara, insomma ci siamo innamorati del suo lavoro, e l'abbiamo invitata a ritornare appunto a Bologna insieme a noi in questo periodo. E in questa settimana Sara ha esplorato la città, e diciamo, ci ha fatto un po' scoprire il suo punto di vista della città. Io non voglio svelare troppo perché è parte della ricerca che sta portando avanti, però ecco, ci ha dato anche dei feedback diversi da quello che uno si può aspettare. Per esempio, Sara ci ha detto che ha avuto qualche difficoltà a non vedere quasi mai il cielo a Bologna. Ah, certo. E questo è stato un impatto interessante. Per i portici? Sì, esatto. O perché l'avete reclusa nel, nel sotterraneo di adiacenza? Come la tenete? Nel sotterraneo di adiacenza. No, in effetti... I was just briefly giving a hint about your first impressions. My claustrophobic first week. Yes. About the lack of sky in Bologna, which is true. I mean... I noticed that once I moved out of Bologna, and when I got back, I realized that there's no sky here. How did that change you when you saw the sky? I miss the sky now. Yeah. That's really as simple as that. Mm. Dicevamo che io mi sono reso conto del fatto che manca il cielo a Bologna. Ha parlato anche delle stelle. Delle stelle, no, parlate del proprio cielo. Dei portici, no, del cielo, manca luce, manca il cielo a Bologna, perché in effetti a parte Piazza 8 Agosto non c'è il cielo. E dunque mi chiedeva, adesso che sei tornato a Bologna, come fai senza il cielo? E io gli ho detto che mi manca il cielo, semplice. Ma ascoltiamo un pezzo del disco di Roxine, visto che è lo introduci tu, Rebecca. Io ti metto, non so se intitolarla chimismo o cimismo. Ah no, magari chiediamo. Chimismo in italiano. Chimismo. Sì, okay. Questo è un brano in italiano. Che cosa ci dici di questo brano? È quello più esoterico fra tutti e cinque i brani del disco. Parla di una, diciamo, di una sofferenza, ma che ho voluto rendere più simbolica in questa canzone. Sì, è un percorso evolutivo. Che avviene attraverso la sofferenza, ma visto anche in chiave simbolica, appunto, l'ho voluto romanzare in questo modo, siccome c'è stato un periodo della mia vita in cui l'esoterismo ha avuto un'enorme importanza e ero molto presa da questo argomento, allora ho voluto unire le due cose, perché comunque erano già unite all'epoca, quindi chimismo mi sembrava un termine più giusto rispetto a chimica, perché in ambito esoterico si usa proprio questo termine chimismo, quindi ascoltiamo questo titolo. No. obiettivi mentre stai facendo la regia, è pericolosissimo. A Marco Roma. E io ho una domanda. Aspetta che lo dico anche in diretta, ho scritto a Veronica Veronesi se potrebbe venire il 18 dicembre. Ok, Veronica. Alza anche gli ospiti. Dicevi, Simona? Di salutare Veronica. Di salutarmi tanto la Vero. Che ormai è... E appena detto di yes, appena vedi, scritto fantastico. Yes. Vengo con la bebè. Fantastico, allora ti aspettiamo con la bebè il 18. Sì, previa conferma porta... 3-4 volte. Sì, no, esatto. Per i canti di Natale però della Simona Pinelli. No, che canti di Natale, però ricordati il chitarrista. Sì, sembrimi di Mary. No, io ho una domanda per Rebecca, detta anche Roxine. Ma questi video fantastici che hai messo su YouTube, ma come li hai fatti? Chi te li ha fatti e perché? Allora, il perché mi mandi un po' in crash chiedendomi perché no, a volte vabbè. Non me lo chiedo anche io, ma okay. Allora, il primo video, quello di Pyroxene, è stato fatto da Andrea Alberici e Teo Ambrosini. Andrea è un ragazzo incredibile che ha già lavorato con una band di cui facevo parte che si chiamava Ayahuasca, e siccome comunque lui ha sempre capito molto bene quali fossero le mie intenzioni e che cosa volessi ottenere, insomma, dai miei video, direi che per Pyroxene ha centrato il bersaglio a pieno, quindi ci abbiamo anche lavorato su per diversi mesi prima di riuscire a trovare una quadra, perché inizialmente il video voleva essere molto più ambientato nello spazio, insomma richiedeva tutto un certo tipo di computer grafica che non ci potevamo permettere, io non mi potevo permettere. Allora abbiamo più reinterpretato la cosa come l'uomo che cadde sulla Terra, no? Comunque questo incidente lo spaziale che avviene sulla Terra, e è stato divertentissimo. Lui è stato estremamente disponibile, ha avuto anche delle idee azzeccate proprio lì sul momento, e soprattutto mi ha dato una grandissima mano dal punto di vista emotivo, visto che ero sotto il sole da tantissime ore, la mia pelle si stava ustionando e non poco, mi ha dato veramente la forza di completare questo video. Andy è stato fondamentale. Ma dopo il giorno dopo eri ustionata. Pensavo che ti avesse passato la crema. No, ci siamo dimenticati della crema, perché il video è stato girato a luglio, ma la notte prima c'era stato un temporale che non aveva veramente senso, quindi eravamo convinti che ci sarebbero state le nuvole. E invece no, proprio sole. E l'altro video invece? L'altro video è stato fatto da Paolo Tasso, che è un fenomeno batterista di Macerata. L'ho conosciuto perché suonavo con gli Apnea, appunto questa band di Macerata, per e lui ha un sacco di trascorsi musicali. Stavo dicendo, chi ascolta non la vede, ma è una neonata e sta facendo un curriculum, e anche la maturità musicale dell'ascolto è incredibile. E questo lo diciamo a chi dice che a 30 anni si è troppo vecchi. Mi è stato detto, e tra l'altro da... Vabbè, ma non c'era bisogno di spoilerare il fatto che ha già 30 anni, voglio dire, ne dimostra 22. Grazie, sono molto felice di questo, però... Ma che male c'è poi ad avere 30 anni? Tu ne hai molti di più? Vabbè, certo. Per fartelo pesare un po'. Ma ci sta, ma non è la prima né l'ultima. Quello che ti rende figo, Stefano. È chiaro. Quindi tu dicevi. Mi è stato detto diverse volte da diverse persone che avere 30 anni e voler fare il musicista, insomma, mi hanno detto: sì, ma non sei un po' troppo grande ormai per questo. Cioè, come ma dire. Figurati, però lo Conte è diventato famoso a 50. Ma infatti, e non solo, ce ne sono tanti che sono diventati famosi dopo gli i 30. Liscio. Per esempio, grandiosi, tra l'altro. Ecco, se vuoi comincia la sciolinatura, perché per me invece la vera maturità musicale si raggiunge, a meno che dei geni, ma dai 30 anni in su, almeno. Sì. Infatti, voglio dire, non è un caso che Roxine esce con il suo disco a 30 anni, perché è il suo primo disco. Ma anche disco la voce si matura bene, cioè per esatto. Me prima è presto. È presto. Sì. E la voce di Marco Roma invece se lui avrà 30 anni oppure no, chi lo sa, noi non lo sappiamo, anche se lui tutti i giorni ci manda un vocale che adesso stiamo per ascoltare, eccolo qua. Buongiorno, io penso solo a volte che senza di me tu sei perduta, se non alzi il telefono può accadere che ti senti più perduta, provaci un po' a scrivere quel numero Io sono Marco Roma. Buongiorno! Buongiorno a te, Marco. Però la rima perduta con perduta devo dire che lascia un po' a desiderare. E dici una cosa, Marco, di chi stai cercando il numero di telefono? Perché noi... Sì, no, perché magari ce l'abbiamo. Basta. Esatto. Messaggiaci di nuovo al 333-180-94-94 e magari ti diamo il numero perduto. Che... Oppure gli ascoltatori e le ascoltatrici che stanno ascoltando magari l'avete trovato. Esatto. Mandateli un messaggino. Se volete, infatti. E noi qua siamo Cox Spaziale da 470, siamo, dico così. 470 siamo? Okay. Mi piaceva come numero. Ma forse hai ragione. O 69 o 70, direi. Secondo me è la 470. Corina ci dice di slow down, parliamo troppo veloce in italiano. Eh sì, ma del resto voglio dire, non sa l'italiano, che cazzo ascolti a fare. Però Corina ti salutiamo. Esatto. Paracalò. Poi salutiamo Valeria da Torino che ci sta ascoltando e anche Antonietta che da Berlino come al solito ci ascolta molto bene. Abbiamo tre ascoltatrici in giro per il mondo. Anche Amerigo mi sta ascoltando. Ah, è vero, infatti Amerigo fra l'altro ha detto che voi due vi chiude sotto mi ha scritto che vi chiude nei sotterranei di adiacenza e poi butta via la chiave. If you're questioning why Sara doesn't see the sky in Bologna, it's because Amerigo is going to lock you in the basement. Thank you. Basement. Fortuna che qualcuno sa l'inglese così. Dai, in tre portiamo a casa la puntata. But you know, it was actually Sarah's first ideas, if we can be told. Yeah. Really? Yeah. To be locked in the basement. Well, yeah, I thought since I do often site specific work, I thought to do it quite literally. And I saw photos of the beautiful space at Adyacenza and and the cellar there and the windows, and I mean, it would be interesting. I'm still curious to do it at one point. Siccome cos'è che ha detto? Non mi... Che sarebbe curiosa. Sarebbe curiosa di farlo. Perché fa site specific. Esatto. Perché aveva visto. Ah, esatto, perché fa installazioni site specifiche. Aveva visto le foto del basamento di adiacenze. Era curiosa di provare a viverci. Di provare a viverci. È un po'. It's a bit humid, I think. Yes. Just slightly. Yeah. But I mean, you come from Norway, maybe we can. I mean, maybe you're used to it. I have no idea. No, I guess not. Maybe probably in the summer. Because Bologna, I think, is one of the most humid places in the world. So I don't think Norway is as humid as that. No. Cioè, penso che Bologna sia uno dei posti più umidi al mondo. E non credo che la Norvegia sia così umida, per cui sì, non te lo sconsiglio di andare a vivere nel basamento di adiacenze. Poi fa tipo un The Artist is Present come la Marina Abramovic, esatto. La mettiamo lì. Mm-hmm. We changed a bit from there. Okay. Il progetto poi ha cambiato. So what did you do at the end? Come the 1st of December and you'll see. Il primo di dicembre lo scopriremo. È lì che inaugurate la mostra. Esatto, ok. Ah, fantastico. Domani per cui domani cosa succede? Domani è più un open studio, quindi presentiamo un po' di lavori precedenti di Sara e ci sarà qualche traccia del progetto che sta sviluppando ora, che è principalmente fotografico. Domani alle 17. Dalle 17. Ci sono un sacco di robe domani alle 17. C'è anche Italo Zuffi in Accademia. C'è Italo Zuffi in Accademia e c'è l'Armenia Panfolclorica all'Assemblea dell'Emilia Romagna. E l'inaugurazione del Modernissimo. Abbiamo già fatto l'angolo delle menzioni, ragazzi. Esatto. Cosa metto? Metto tu cosa fai domani alle 5, per esempio? Potrei esserci, perché no? In quale dei cinque eventi? Quella dove sarete tutti voi, io vengo con voi. Molto bene, ci vediamo in Accademia allora. No, io fra l'altro alle 5 devo parlare con una studentessa della sua tesi, per cui però magari riesco a raggiungervi in tempo per l'aperitivo. Volentieri. Io lancerei un savoir-faire e dopo c'è la pubblicità. Cosa lanciamo dici? Un savoir-faire. Che cos'è un savoir-faire? È il terzo brano del mio EP e che dire, il titolo in realtà e il testo della canzone parlano da soli. Non vorrei neanche dire troppo su questo pezzo, è quello più recente di tutti e cinque e ci tengo molto. Ma possibilità che voglio dare a quest'uomo. E lui fa tanto chiasso quasi da poter distorcere il suono. Ed abusa di quel, di quel, il savoir-faire. A mascherare un volto che non vuol mostrar pudore. Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Sono Teresa Ricci e stai ascoltando Coxo Spaziale. Eccoci, hai capito? Ritornati. Alla 470esima puntata, perché ormai ho deciso che è così, di Coxo Spaziale. Ma c'è scritto su sulla chiavetta comunque che numero è. Così rovini tutta la poesia in una sola chiavetta. In una sola chiavetta. E siamo con delle ospiti. Ospitesse. Ospiti. Ospitesse. Ospitesse, come vuoi. È come assessora un po'. Esatto. Come, un po' come assessora, ospitesse. E quindi ridiamo il benvenuto a Simona Pinelli, a Roxy. Mm-hmm. Ovvero Rebecca Magri. Poi abbiamo Sarah, che Sarah, però non mi ricordo il cognome, ce lo dice Georgia. Larsen Stiansen. E poi Giorgia Tronconi, che invece è facile da pronunciare. Esattamente, di adiacenze, che ci ha annunciato un prossimo spoilerino di quello che succederà ad adiacenze con il lavoro, il progetto di Sara. Che annuisce ed è molto carina, anche se io start speaking a little bit of Italian, Sarah. She's learning. Maybe understanding a little bit. Or maybe she secretly knows Italian, but she doesn't. Yeah, she pretends yeah. She doesn't. Like the secret observer. Which would make sense. 333 180 94 94, se volete mandare dei messaggi a queste d'amore fantastiche ospiti che abbiamo, ospitesse, o anche d'amore a Marco Roma. Ok. Sei venuto qua per le menzioni, vero? Sono venuto qua per le menzioni perché c'è un sacco di roba, tra cui una cosa che non, di cui non vedi, tra martedì e giovedì c'è un gap che poi ci riempirà un gap. La nostra, come si dice, Simone. Gap? E la nostra Simona. Vai, fai così. L'angolo della menzione. Però io, se fossi in te, farei questa cosa qua, esatto, questo lo sposti di qua e quello lo sposti di là e poi lo chiudi un po' così, perché altrimenti gli ascoltatori possono prendere appunti. Esatto, esatto, prendete appunti, perché martedì 21 novembre dalle 16 alle 19 in occasione della giornata nazionale degli alberi, il giardino geologico della regione Emilia-Romagna ospita in collaborazione con l'assemblea legislativa una performance dell'artista armenia panfolclorica a cura di Maria Chiara Wang. Rumita, come una foresta che va, è il titolo della performance, che esplora il tema dell'albero con riferimento alla figura tradizionale lucana del Rumita, tratta dall'antica festa popolare del carnevale di Satriano. Seguirà un approfondimento sui temi maschere e alberi, carnevale e bosco, alberi e paesaggio, e su come gli stessi vengono trattati e vissuti trasversalmente dal nord al sud Italia. Questo è al giardino geologico della regione Emilia-Romagna in Viale della Fiera 8 per la performance e nell'aula didattica Centro Alberto Manzi in Viale Aldo Moro 50 per l'incontro che seguirà, e questo è domani dalle 16 alle 19. Sempre domani 21 novembre alle ore 17 nell'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, presentazione del libro Artemides di Artemide più Le Rosa Chronicles, con Margherita Morgantin, Tiong Chung e Italo Zuffi, a cura di Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli. Il volume documenta il lavoro dei tre artisti che nell'estate 2022 a Cortina d'Ampezzo hanno realizzato il progetto espositivo I Giardini di Artemide per la terza edizione di Sentieri d'Arte. Tutto questo domani all'Accademia di Belle Arti di Bologna in via Belle Arti 54. Dopodiché cosa succede mercoledì? È tutto tuo il microfono. Allora, mercoledì, da mercoledì a domenica, tra Casalecchio e Bologna, cioè tra il Teatro Laura Betti e il Dams Lab, si svolgerà la quarta edizione del Terra Viva Film Festival. Il Terra Viva Film Festival è ideato, pensato, sviluppato e prodotto da Genoma Films, che ormai è il prezzemolo, e l'associazione Amici di Giana. Il sottotitolo è Prove per un pianeta colori. È un festival molto particolare perché è un festival che presenta lungometraggi e cortometraggi. Quest'anno sono 14 opere provenienti da 12 paesi del mondo e nasce dal premio Mutti. Il premio Mutti è l'unico premio italiano del cinema migrante. Nacque ai tempi ed è intitolato a Gianandrea Mutti, che era bolognese, un critico cinematografico morto tragicamente, e il premio Mutti è andato a colmare quel gap che c'era per i giovani registi migranti di prime o seconde generazioni, cioè la mancanza di cittadinanza italiana, cioè il non accesso ai fondi pubblici. E quindi il premio Mutti premia con un premio in denaro lo sviluppo del soggetto che questi giovani registi presentano e poi gli trova una casa di produzione per produrlo, e tutti i film che hanno vinto finora, che hanno quasi tutti, anche quelli che hanno partecipato al premio Mutti, alla fine sono diventati film, tanto che spesso, cioè nelle edizioni ci sono sempre dei film del premio Mutti. I temi sono quindi temi di impegno, quindi sostenibilità, ambiente, inclusione, diritti umani, diritti civili, e veramente sta facendo emergere anche artisti di grandissima qualità. È proprio un festival, quindi i film sono in concorso, vengono votati da una giuria di esperti affiancata dagli studenti dei licei, delle superiori, che votano. A questo è abbinato sono abbinate delle masterclass la mattina per varie classi, dal Galvani al Da Vinci, al Salvemini, su vari temi: regia, coreografia, espressione, così, e dei panel quotidiani che analizzano i vari temi del Tel Aviv Film Festival, e le proiezioni normalmente sono nel macro tema. E quindi si comincia mercoledì 22 alle ore 16. Ok. Vi aspettiamo tutti. Capisco che mercoledì 22 alle ore 16 siamo avanti, c'è l'inaugurazione. Ok. Ma la giornata da non, le giornate da non perdere. Okay. Poi dopo, se vuoi avere più informazioni. Certo, dopo mi spedirai quelle 18 pagine. Di papiro, 18 qua. Pagine che stai sfogliando. Il, sì, l'hai okay. Sì, c'ho proprio l'inferno di Dante. Ok. Da non perdere è il sabato. Sabato, naturalmente. Il sabato, perché. Ma dobbiamo dividerci tra Casalecchio e Bologna, oppure. Com'è la faccenda? Il Dams Lab sarà soprattutto mercoledì, giovedì e venerdì. Ok. Il martedì c'è solo l'inaugurazione e la proiezione dei film in concorso. Il sabato siamo di nuovo a Casalecchio e c'è, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione sulla violenza delle donne, che ha troppe Z, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ci sarà tutto un pomeriggio proprio dedicato a questo tema. Ok. Con registe, illustratrici, docenti, saggiste, videomaker, giornaliste, ovviamente l'archivio Memoria e Migranti, che è sempre attiviste, editrici, fondatrici di marchi anche di moda, chi si occupa di sostegno, di sostenibilità. E, sto guardando perché ed è molto molto interessante, e vedrà Marta Perego, giornalista e scrittrice, Liliana Giugni, docente universitaria, attivista e autrice di La rete non ci salverà, e Filippo Biolè, avvocato del lavoro, pari opportunità e diritti umani, alle ore 15 al Teatro Betti di Casalecchio. Okay. Alle 16 cambio palco e ci sarà invece Ida Lego di Reuse with Love, che è una realtà nostra, Susanna Zaccaria della Casa delle Donne, Roberta Baldazzi, Rise Against Hunger Italia, e Jacopo Soranzo del CEFA, perché si discuterà proprio di inclusione e diritti umani. Fantastico. Tutto questo dove lo troviamo? C'è un sito che ci fa vedere tutto questo fantastico programma. Terravivafilmfestival.it, tu scritto da terravivafilmfestival.it. Fantastico. Qui c'è tutto, e soprattutto la cosa bella è che è tutto gratuito. Oh, così ti non vogliamo. Non solo, ma My Movies avrà una sezione, sai che My Movies certo. da un po' fa si dedica anche, diventa un come un sì. una stanza del festival, certo. una location okay. del festival, e quindi in streaming su My Movie si potranno vedere limitatamente al tempo del festival, i film. Ma veramente, guarda, è una roba, io sono contentissima. Però non di aver... guardateveli a casa, venite a Casalecchio. Ma magari è molto più simpatico. Muovetevi, il 20 appunto. È comodissimo, arriva davanti al teatro. Infatti. Ecco. Si trova anche da parcheggiare a Casalecchio. Esatto. Poi il teatro è così bello. Non gratis, ma si trova da parcheggiare. Io sono contentissima di averlo come assessore, perché devo dire che è proprio un festival di cuore. Ringrazio moltissimo la direttrice artistica Laura Traversi, nonché presidente dell'Associazione Mitigiana, perché lei ha voluto a tutti i costi farla a Casalecchio. Fantastico. Non c'è stata storia. Ok, molto bene. Vai con quello. Perché invece giovedì cosa succede? 23 novembre alle ore 21. Ah, al Teatro Biagi d'Antona di Castelmaggiore abbiamo il gruppo RMN che presenta in forma di primo studio il progetto Costellazione Vicinelli, dedicato alla poeta e performer Patrizia Vicinelli, nata sotto le due torri il 23 agosto 1943. Lo spettacolo fa parte della rassegna Condimenti Off, curata da Bottega Bologna Articulture, con Francesco Tozzi, ma Leonardo Bianconi, Luisa Borini, Leo Merati, Giulia Quadrelli, Chiara Sarcona. Drammaturgia di Francesco Tozzi, video e musiche di Leo Merati, che abbiamo avuto qui in ospite a Coxo Spaziale, che salutiamo. Consulenza letteraria Alison Grimaldi Donahue, che invece deve ancora tornare a Coxo Spaziale, con la regia del gruppo RMN. E naturalmente salutiamo anche la nostra Giulia Quadrelli, che anche lei è stata qui un paio di volte. Questo è al Teatro Biagi d'Antona, in via Giorgio Lapira 54 a Castelmaggiore. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Dal 24 al 26 novembre il Teatro dell'ABC propone il Festival del Confine, con incontri e spettacoli con Andrea Zoc, Valentino Corvino e Gabriele Via, Paul Palli e Guglielmo Pagnozzi, Francesca Rigotti, Mara Melmasri, Carlo Ventura e tanti altri. Tutto ad ingresso gratuito al Teatro dell'ABC in piazza di Porta Castiglione 3, Bologna. Invece venerdì 24 novembre dalle 15.30 alle 18.30, naturalmente qua, cioè tutti quelli che fruiscono queste robe, proprio lavorare non se ne parla, capito? La sala conferenze del Mambo ospita un incontro fantastico che si intitola Materia Morandi, studi e ricerche sulla tecnica artistica di Giorgio Morandi attraverso gli oggetti, i materiali e le opere. Un incontro sulla tesi di dottorato di Maria Laura Petruffellis, che si è posta come obiettivo lo studio della tecnica artistica adoperata dal pittore Giorgio Morandi. Introduce Eva degli Innocenti, direttrice del settore musei, che salutiamo e che è stata ospite anche lei qui. Intervengono Flavio Fergonzi della Scuola Normale di Pisa, che racconterà gli oggetti e i formati dei quadri di Morandi modernista. Dopodiché abbiamo Mattia Patti, sempre dell'Università di Pisa, dell'Istituto Nazionale di Ottica, del Centro Nazionale delle Ricerche CNR INO, il cui panel sarà Underdrawing e costruzione pittorica delle opere di Giorgio Morandi, il contributo della riflettologia multispettrale a scanner, e da lì hanno scoperto per esempio che Morandi infilava dei pigmenti in mezzo ai suoi tubetti già pronti. Dopo lo scoprirete se andate ad ascoltare questo fantastico incontro. Dopodiché abbiamo Claudia Conti dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR ISPC, che con la diagnostica non invasiva per la conoscenza della tavolozza pittorica. E poi abbiamo naturalmente Maria Laura Petruffellis, che ha messo insieme tutto questo, dell'Università di Firenze, con via fondata il contributo dell'atelier all'analisi della tecnica artistica di Giorgio Morandi, perché lei si è messa lì e ha guardato e ha archiviato tutto gli oggetti che ci sono dentro a casa Morandi in via Fondazza. Questo è nella sala conferenze del Mambo in via Don Minzoni 14 a Bologna, venerdì 24 novembre dalle 15.30 alle 18.30. E infine l'associazione Iucalici segnala il web radio concorso Oggi racconto io, figura di donna del Novecento in Emilia Romagna, che è stato prorogato al 29 novembre. Potete partecipare tutti e tutte, basta essere residenti in Emilia Romagna. Dovete scrivere un racconto su una donna del Novecento che sia stata significativa per la vita culturale, sociale, politica, economica della nostra regione. Immettetevi voi stessi come testimoni dell'episodio della vita della personaggio scelta, creando così una fantastoria. Tutte le info sono su www.iucali.it. Olè, ce l'abbiamo fatta anche stasera. E ormai sono le 20.48. Cavoli, non abbiamo più tempo per dire. Dobbiamo... Cosa facciamo? Mettiamo Supreme Soft Porn Meditation for Young Space Soldiers? No, secondo me lo mettiamo come sigla. Lo mettiamo come sigla, dai. O preferisci Selvatica? No, dobbiamo farci spiegare da Sara che cosa succede. Che cosa succede Supreme, domani? Supreme Soft Porn Meditation for Young Space Soldiers. Che è il titolo più carino. Molto mi ispira questo titolo. Grazie. Ispira a tutti. No, solito. So what's going on tomorrow, Sara? What's going on tomorrow? What are you gonna tell us? Cosa succede domani? Che cosa ci racconterai ad adiacenze? There will be an open studio where I'll present works. Ci sarà un open studio dove presenterò previous works and also works in the making, some that I've lavori precedenti e anche lavori nuovi che sto cominciato a fare qua a Bologna. So video works, installations, photographs. Quindi ci saranno sound, video, installazioni, foto, suoni. Takeover ad adiacenze. Adiacenze, takeovers ad adiacenze. Giorgia, volevi aggiungere qualcosa? Ma rimaniamo piuttosto misteriosi, però sicuramente è un occhio, e quello di Sara è un occhio molto, molto attento, molto sensibile, e il suo lavoro parla molto della sua esperienza fisica di Bologna, okay. Molto corporeo, quindi penso sarà interessante vedere i suoi sviluppi. I have a question for you. You think the tower is gonna fall down or not? Ho una domanda per te, pensi che la torre cada o non cada? Questa è una domanda molto azzeccata. In my works, I will fix them. Okay. Nel mio lavoro l'aggiusterò. Fantastico. Hai fatto uno spoiler senza saperlo. Vedi? Le cose sono nell'aria. È l'intelligenza di Pasquini che ogni tanto viene fuori. Che non si capisce, non si capisce come mai. Ma... Intanto emerge. Esatto. L'atmosfera coxica che fa emergere queste cose, ma perché diciamolo, non cade dai la torre. Non cade? No. Sta cadendo la torre, dicono che cade la torre. Chi lo sa? Lo scopriremo solo vivendo. A Parma avete delle torri? Ma abbiamo il battistero che non è caduto, però è stato fulminato. Da un fulmine? Sì. Dai, ma quando? Andiamo indietro, ormai sono passati diversi anni, lo hanno già ristrutturato e tutto, però era stato un bel botto. Perché anche a Torino la Molle Antonelliana negli anni 50 è stata colpita da un fulmine ed è venuta giù la torre. Chiedo scusa, non era il battistero, era il Duomo. Il Duomo. Un attimo di defiance, okay. Sì. Ma... Maybe Sarah fixed it. But, yeah, we have Sarah that will fix it. She will fix it. I'm not worried anymore. No. Fantastico. E hai qualcos'altro da aggiungere rispetto al tuo fantastico disco? Ma poco fa stavamo parlando di sentire Supreme Soft Pole Meditation for Young Space Soldiers, che è una grossa, come dire, è una presa in giro nei confronti del rapporto che c'è tra uomo e donna. Un voler sdrammatizzare, no, il rapporto che c'è tra uomo e donna. Molto spesso gli uomini, no, i maschietti forti, virili, capaci. Sono degli stronzi. Ma più che essere degli stronzi, possiamo essere stronzi anche noi, non è quello. È che diciamo che riescono a essere facilmente vittime della figura femminile e spesso si definiscono loro stessi vittime della figura femminile. Quindi questa canzone è appunto una presa in giro, è vista come una specie di allenamento per giovani cadetti spaziali, no? Dove vengono messi a dura prova grazie a queste fanciulle, queste bambolone che gli stanno addosso, così se riusciranno a resistere a queste bambolone riusciranno a superare qualsiasi sorta di difficoltà nello spazio. Insomma. Sono un po' le sirene di Ulisse, esatto, rivisitate. Esattamente, più sci fai, ma è proprio questo il... Hai capito? Non hai capito? No, sono curiosissimo di sentirlo. Cioè, in realtà l'avevo sentito 2 settimane fa e lo volevo suonare, però poi ho visto che non era tra quelli da suonare prima dello spoileraggio del disco, per cui c'è qualche Young Space Soldiers a cui la vuoi dedicare? Bah, sicuramente tutti i miei amici maschietti sono degli Young Space Soldiers, alcuni un po' meno young di altri, ma per me saranno per sempre young, quindi forever young. Sì, in realtà forse la potrei dedicare prima di tutto a mio padre. Bello, quindi, mi piace, sì, questa cosa, mi piace. Non mi ci avevo pensato fino a questo momento, quindi grazie. Quindi dedicata al papà e a questo punto ai papà. Ai papà e a tutti i maschietti. Super. E poi la Simona vuole forse dirci qualcosa? No, io volevo ringraziare perché mi avete chiamato qui con le mie due anime, perché io sono assessore... Ormai faccio solo quello, però sono musicista cantante, musica, avrei studiato storia dell'arte così per incoccio. E infatti poi per adiacenze avevo fatto il libro gioco di Petri Paselli. Sì. Oggi siamo stati nello studio di she's worked with Petri Paselli. We've been in the studio today. I'm the former curator of them, and now I'm not. Yes, I was a curator. Also, they made a monkey for the New Year's Eve in the main square, Piazza Maggiore, and I curated that. But now I'm not cured anymore. La scimmia che è stata bruciata a Capodanno. Sì, esatto. Ok. Ah, fantastico. Molto bene. E queste mie due anime, fra l'altro, con due persone interessantissime. Io questa adesso la seguo. Spaziali ci sono sempre. Ci sono sempre persone interessantissime a Coxo, sì, Spaziali. No, è vero. Naturalmente. Sempre interessantissime, ma veramente già hai preso le... E per il resto, niente, vi aspetto al Terra Viva Film Festival da mercoledì a domenica. E la settimana dopo, velocissimamente, abbiamo anche una bellissima iniziativa che si chiamerà Al Lavoro, su 2 giorni, sulla riflessione sulle nuove professioni e su come siamo oggi e c'è un po' di tutto, dalla Confindustria ad Ascom, ci sono workshop. Ho capito. Ci sono, naturalmente il tuo ufficio stampa manderà a coxospaziale@gmail.com tutto quanto e noi lo menzioneremo nell'angolo della menzione. Adesso dopo, tanto dopo mando la registrazione, quando la metti esatto. A podcast la mando e dico alla fine verso la cosa c'è ascoltate, la mail esatto. Muoviti. Ascoltate un attimo che molto bene, come siamo messi a tempo? Io da qua non lo vedo. Siamo perfetti per dire che ringraziamo tutte le nostre ospiti e ospitesse di questa bellissima presenza. Thank you very much Sarah for your presence here and for fixing the tower of Bologna, because this yes. I mean this is something. Avevamo bisogno di te. Io niente, io ero Stefano W. Pasquini e io ero Mia Daschio su piedi, questo era naturalmente Coxo Spaziale. Vi lasciamo con i fantastici Panta 80 e con le parole del nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. moment.